città, mentre presa dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure due passi sforzati. La gente poi